allora è così semplice, a dirmi chi ti vuole mi vincoli, non fa contare, fa compagnia, dai senti in terra senza dormi. Attenzione, canale 10, copiate Antonio, K, se c'è qualcuno. Ora. Scendi, ma il segnale è mio sempre stabile, ora vedo un po', ti lascio la portante. Sì, sì, sempre stabile, sarà lo Smith di andare due a farci un bel culo. Puro lì, la farsi benedire. La farsi benedire. Un attimo, ti posso sentire di salenza, aspetta. Fammo sentire. Pronto, attenzione Claudio Gata. Sì, vabbè, è via che tu scendi. Senti adesso. Via. Fischiato sta. No, senti il bip. Lo sento io il fischio. Vai, non sta fischiando. Lo sento io. Già io ho tutto lo senti, ma io non sento niente qua, sento solo la tua voce, il bip. Il doppio bip. Vabbè, secondo te andava. Prova. Io non sento fischio, sento la tua voce e basta. Sollevo appena. 1, 2, 3, prova. Ehi, uscire. Lascia la manetta, 1, 2, 3, prova, io fischio non ne sento, non pompa ma fischio non ne sento, però se io non sia compatibile con quella radio, io non sento nessun fischio. C'è l'eco adesso, 1, 2, 3, prova. Eia, che c'è l'eco, appena già si sente, però fischio non ne sento io. Sta facendo il rientro della colonnina. Cosa c'entra quello? Quello è un rientro nella cassa della tua colonnina, ma non è che sta uscendo col fischio, no? Io ti sento benissimo. Ho provato a spostare, guarda un po'. Mi senti benissimo? Certo che sì, io ti sento bene. Fischi non ne sento, se poi sta fischiando da te all'interno della tua cassa è un'altra cosa. Vabbè, comunque, questo qua è la delta, 1, 2, 3, prova. E questo è quello normale, 1, 2, 3, prova. Ehi, sono tutti e due uguali, mi pare a me. Allora, io è stato sincero, ma ha detto che è meglio il mio, microfono normale. Ehi, uguali, Gio. registra di modulazione sono uguali. Allora niente, dai. Vabbè, dai, glielo restituisco, se procuro un MB più 4 con la cifra lì va bene. Io in questo momento sono sprovvisto, te l'ho detto, ne avevo 2 MB più 4 e 3 MB più 5 gli orati. Non ha più manco uno, ne ho uno solo, MB più 5 e connessione Galaxy e boh. Scusa, voi un più 4? 5, però non rispendo tutti quei soldi, cazzo cosa, non mi guarda 100 euro, mi vai, più di 100 euro. Sì, ti ho pagato 60 euro l'MB più 4 e 70 euro l'MB più 5 da fusare, nuovo, vedendo la scatto. Vabbè. Ma fatta una cosa così. Niente, ci vuole più 4 qua, un più 4 va. L'MB più 4 me l'aveva fatto pagare 60 euro, l'MB più 5 è 70, 10 euro in più, capito? Vanno bene per due, non è che ci sia molta differenza, vabbè, con me la differenza ve ne provo, però ci va bene. Ieri sera stato un attimo, mi eravamo in campagna, che me ne leggo la roba da campagna, così poi mi cambio anche. Ehi, io sono qua, KK. Vanno bene anche 30 di picco, ma l'importante è la portata. 10, infatti va bene. Sì, la portante bianca è ecologia, sento una quella cifra. Quindi come questa, ecco 10 watt, ma lati siamo intorno ai 25, già va bene. Ma più che ottimo. E allora, sempre freddo c'è però, Mara giù il ticket. Beh, influenzato io. Forse adesso mi sto un pochettino meglio, sto, forse. Mamma mia. Cappa di Antonio, perché c'è un bel freddo. Non sarei mezzo alle correnti, c'è un bel di freddo questo. Già lo so già. Cappa, mi ha fatto uno spezzone, mi ha fatto. L'ho recuperato da quelli delle telecamere, già ho visto che va bene lo stesso. Cioè il BNC attaccato, gli ha attaccato un PL e quando è me l'attacco qua il portatile. Sì, già vanno bene col BNC, già funzionano, qualcuno ce l'ha anch'io mi sembra, ma insomma, in mezzo a tutto il casino. Cappa, non sarà RG58, ma per ascoltare già va bene. Poi esce pure, ho provato. No, ma già ti ho sentito col portatile, non c'è un problema. Cappa, no, è per non attaccare quel cavolo di cavo tutto particolare. Attacchi quella al volo e va, con le batterie. E con l'antenna sua, con l'antenna esterna. Con l'antenna di fuori. Sì, già va bene. Già va bene, tu. L'importante è che esci, che ti sentano pure, che già abbiano frutto intanto. Va bene così. Sì, l'ho buscato e me lo son fatto. Gli ho messo un PL, ha giunto. Quello che era appena più grosso, visto. Come di fatica, no? Già funziona lo stesso. Una cosa nuova, te lo posso vedere come te. Ci suga. Sì, infatti. Conviene, dai, te va bene. C'è la Lucca, no, te la faccio, Lucca, in campagna. Ecco già entrava l'oppo. E muro, non sentito, no? Mi te l'ho mandato. Come è fatto? È già un bel tombo. Aspetta, lo guardo. Sì, va bene. E io voglio. L'ho recuperato perché siccome ho cambiato le telecamere in deposito, l'ho recuperato da lì. Ha detto questo me lo piglio io. Sì, quando trovi questi connettori così, tu prendili, vanno bene. Non li buttare. Io ho visto che non li fa niente, RG59, però già andava in una pece. Sì, no, farà un raio, no, già andava. Cappa, la puta sai, già ho visto che funziona poi. Uiuiui, mamma mia, cazzo, mangio un gabbo, cazzo, a bumbugnone mangio. Mi sa che mi sia abbassato, cazzo. Se domani posso tornare un po', almeno un po' in forma. No, è lunedì, no, c'è niente al lavoro. Il lunedì c'è sempre da fare. Cappa. Non ha giocato ad andare, adesso gli ho detto, guarda che forse non vengo, ma già fa come ti dimbiate, vedi riposti che so. Poi ci dici, ma stai meglio, stai bene, vabbè. Ma che ma figli, pare che l'ha già fatto un dorso. Ha ragione, c'ha ragione che così. Yeah. California. Ciao Claudio, buonasera Antonio, sempre a intendi di te. Io te lo ascolto male a Franco. No, basta appena. Guarda un po', una, due, tre, qua. Aspetta che faccio un micchio che ho per la manetta. Così bene va. Ma tu bene l'ascolti Antonio? Io l'ascolto, cioè, è amplificato ma non l'ascolto male, no? Aspetta un attimo. C'è un bel segnale, c'ha qua la mazza che ti riparia. Ah, c'è un segnalone, c'hai. Tu ci scendi. Adesso sto facendo un 5 con 4 watt modulati, capito? C'è una minima potenza. E poi sto usando il 68. E un bel forte c'è. Guarda. Aspetta. Adesso sto utilizzando 4 watt. Guarda un po' adesso. Adesso già va meglio. No, ma di segnale proprio sì, una fucilata sì. E vabbè, non è che siamo tanto lontani noi due. Forse è dovuto anche per che ce l'ho a 2, l'ho abbassato perché era troppo alto, quindi lo lascio così. Allora già va bene, cappa. Ma io vengo a una banda di salvezza. Bene, mi ricevi tu a me. Qua c'è 9.40, 9.35, dai. Ehi, scusa che mi ha chiamato. No, no, ci avevo io il diritto inserito che potevo fare il mando laterale, stavo ascoltando. Vedi un po' adesso, Claudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9.20, sì, picchi positivi a quasi 30, già va bene. KK, già va bene, dai, ok. Vai a tua. K, fortissimo sei da me. K, anguglia. Ehi, vabbè, non è un po' che non ti sentivo, cosa ne vende? Sempre trabaccato, campagna, facendo, rifacendo, sempre da fare. Tutto qua. K. Ui, ui, ui. Mamma mia, cazzo, il mal di gambo. Cazzo, non li muo subito di chissà cosa. Chissà che non mi ha mandato, si è in forma. Ma lei te l'ha detto anche tu, fai avanti dei viaggi. Lumox o Bobo 2? Lumox. Allora, se avete posti questi. Cazzo, ma che l'ha già fatto un torso. Sì. Raga, va. Nel carità. Chi è il capo? Daniele, no? Eia. Io ho conosciuto il padre, mi sembra che era meglio di lui, no? Ehi. L'interesse a travagliare, boh, non ne ha fatti nulla. Del nastro. Sì, tutti così sono, così appresi che siano diversi, tutti così sono. Fra bene, mi stai ascoltando le radio? Sì. Oh, passaggio. No, beh, segnale non mi interessa, intanto sono con poca potenza, non è che 10 watt. No, la radio mi interessa perché l'altro giorno questa MC60 stava facendo il capriccio. No, no, va bene, ti ascolto benissimo di radio, anche il segnale, buono, ultimo. Di luce alla grande, non ce n'è, va bene, va bene, va bene. Positivi. 9.35 è quasi a picchi 9.40 qua. Sì, andavè. No, no, mi interessava la radio perché intanto questi microfoni ci hanno il solito difetto, no, fra da sotto che si viene a darli sempre un colpettino ogni tanto al commutatore che c'è della preamplificazione. E io, vabbè, sono microfoni che ho un po' abbandonato, comunque già sta funzionando, no, va benissimo, va benissimo. Io sto utilizzando l'MB4 qua con 68 con 5 watt da, neanche, sì, 5 watt modulati da questo qua, da 5 a 7 non di più, tutto lì, tutto gappa. Adesso provo a metterlo a 7 watt questa radio, quella cosa dice, se va meglio. Guarda il segnale. Guarda un po' adesso, 7 watt modulati. Oh, grande, aguanta. Ma provate a San Maria se fai di voi, sì. No, adesso che già va bene, sta disturbando. E se no tranquillo, già suona la porta. Lo sai, chi sa già mamma mia. Infatti l'ho detto, l'altro giorno l'ho detto, San Maria, ma di sopra? No, no, dice, già, la ci vede bene, tutto a posto, tutto a posto. Eh beh, ci mancherebbe altro. Non c'è tutto a posto, già va bene. Avanti, bomboli, ma cosa vai? Vuoi il gabbo o raffreddore? Raffreddato, sto male un pochettino, ma piano piano mi sta passando, più tardi mi viene da Chipirina, un'altra e via, mi dovrei passare, volevo passare un cinto, ma ti ho pigliato un po', c'è da sbloccare. Ehi, prendi un'altra da Chipirina, stanotte stai al caldo. Se però domani non ci vai è meglio, capito? Perché c'è troppo freddo. Capa. Cazzo di macchine, dai, invece il macchino fa del freddo, ma cazzo io non so, ma tempo meo, si sta nevicando nella parte alta del Gen Argento, nella parte alta di nuovo, sta nevicando, figura di due. Parte Italia è tutto neve, a San Marzo, a Nigeddo. Roba da massima, non lo so ne so. E cosa vuoi ti dica? E beh, fra, ci andate in campagna. Mi siete sovramodulati, si è passato Zucca. No, si è passato Franco. Avanti. Ciao, Claudio, guardami questa modulazione 1, 2, 3, com'è? Buona, buona. Eglia. Quindi già va bene. No, lo accendo a farlo scaldare un po'. 9,30 piano, sì. Ma tu è da te? Allora, te varia. Oltre 9,40, sì. Guarda che fa 4 giri con l'apparecchio. E poi voi siete anche vicini. Fate addirittura qua sì, 9,40 e qualche picco in più qua. Quello è più preciso, anche qua tu sai sono sì, oltre 9,40. Sono più precise rispetto ai baracchini, capito queste. No, va bene fra, ottimo, ottimo. Qua sei 9,69. Che è? Buonasera Luca. Vabbè fra, che bello, senti qua adesso, qui da righe. Gara. A che bene ti arrivo, sì. A voglia, tutti uguali siete qua, tutti uguali. E andava. Si sta arrivando praticamente sei, vabbè, tutti uguali, intendo dire sul rosso, là. Sei in mezzo tra il 3 e lo 0. E allora già va bene, dai. Già va bene con la modulazione. Così dico, capita mia, ragazzi. Ehi, cazzo, bella di fredda oggi, per carità, fredda, uia. Poi ci ha messo a fare la rossa in campagna, con la pacetta rossa, padre di Marina. Oh, è una cosa di bella. Ma abbiamo un po' di vento, va, perché tombo di freddo, aria fredda, c'era il sole, ma aria fredda, no. Mi sono andato subito. Sono rimasto un po' lì, poi ho cucinato la carne, e in cucina c'era la stufa, la cucina a legna, era accesa. Ci stava molto, molto meglio. Io quando sono andato lì a Cagliari, a Siliqua, l'abbiamo fatta col camminetto. Via. Mamma mia, come sto? Oggi un sonno, grazie. Certo. Va via la Ziminea, va via. Uia, ogni volta che si sento la tappetta, va. Cacciavo un vatto, non so che andavo in kiwi. Sono andato, abbiamo raccolto la legna. Poi, uia. Sì, già va bene, quando la fai fuori, tanto è usare, ruba il buono, sopra la graticola, cosa ride, vero fra? Cata, tanto, e me l'ho giocata a frullare a mezz'ora, come la facciamo a figarla. Perché me l'ho giocata a frullare, davvero, ma sto scherzando. Ma una ventiera, una certa ventiera? No, frullare me l'ho giocata. Quando la cotta, te la pettimi l'olio, dopo che l'ho frullato, me l'ho giocata a frullare. Perché te l'hai fatta crollare? Che volevo fare macchigalla. Vabbè, tu c'hai problemi di denti. Vabbè. Sì, la carne arrosto, qua, la morte sua è quella. Arrosto, non ce n'è per nessuno. Sono una volta, a me, la mani su internet, la dentiera che ci vuole mi rimane, ma la mastica giù, ma ne rimane, ma me la bocca in bocca. Ma tu hai ragione, la storia di chi ti ha mangiato la pizza e gli è rimasta la dentiera attaccata alla pizza. Oh caccione! Se no tu durrone sei quella della dentiera in bocca, cazzo io, dai! A parte uno che c'è la dentiera, il torrone se no non lo può mangiare. Guarda, è pericoloso, ma di gente c'è inghiottito anche i denti praticamente con il ferro in acciaio. Io non puoi mangiare il durrone con la dentiera, si tacca. Ma che rimane la dentiera attaccata allo durrone. Cazzo, tu fai un esempio, tu puoi un pezzo di durrone, un po' il pezzo giusto che puoi mettere in bocca, no? Quando la mastica ti si incolla, la dentiera una urlata, ma ti va a masticare da voi, ti veni male. Quando non c'erano queste cose si c'è dura. Davvero, che mi questa canzone Zimino, ma proprio dello marchigano mi vuole i dentivoni, senza marchigano mi mangi un carrazzone. Cosa ancora? Dai, comunque questa boomerang già rende, mi sento benissimo, ma non meno, di più, benissimo proprio, bella, la tenna piccola ma sincera. E dipende da dove è piazzata, capito? Perché io ce l'ho giù in campagna, non è che rende più distante. La boomerang grande c'è, cioè quello con lo stilo regolabile. No, c'ho quella da, mi sa che sia, 3 metri, di stilo centrale, e poi c'ha il radiante, quello che ti può regolare stazionario, praticamente il radiante tutto caricato. E quello solo un stilone non regolabile per regolare il stazionale, quella lì è come la mia. No, qua rende, mi Claudio mi ha confermato che va bene, arrivo bene dappertutto, non dico che arrivo a Porto Torres, purtroppo mi è messo interrato, però se questo la metto sul tetto, perché ho notato che Gianni Profetta sul tetto e arriva, si fa sentire dappertutto. 9 e 10 scelgo qua, 9 più 10. Allora, il problema di quelle antenne che fanno un casino di TVA, hai capito? Ah, io non mi posso TVA, io sono lamentato. Intanto se la mettevamo dove la stavamo mettendo, guai dopo. Purtroppo sono a casa mia, vai tranquillo, sono stato in casa mia e non me l'aveva detto. Tu busso grande, purtroppo sono in casa mia e non posso quando vedo la casa in Chivi. Io qua alla fine sono ospite, capito? Ma che tu l'avresti fatto, essendo ospite? Perché sei in casa tua, lui è in casa sua, e vabbè, è andata così, pazienza, no, non c'è problema. No, beh, non l'avrei fatto neanche io, no, assolutamente. Però ti ripeto, la soluzione c'era, la soluzione c'è per metterla sul tetto. C'è da fare quel lavoro là, spostartela dove ti scende il cavo nel terrazzino tuo, fare quel lavoro, capito, e portarti il cavo dove c'hai adesso il baracchino. E il gioco è fatto. Sì, claro, allora il discorso è questo, con questa antenna qua non fa troppa calazza. C'è una 5 ottavi, ok, va bene, quello sì. E adesso vediamo, ora per il momento non mi interessa. Ah beh, quando lo vuoi fare dialogare, non abbiamo un problema. Vai Franco, e Antonio che fine ha fatto? Sono qui, sono. Io che arrivi poco più di 9.20, mica un segnalone, non è buccia di gioca, no, per 4 fatti che vai. Ma Luca stai dicendo, 9.10 qua, io sono più distante da lui, sono quello più lontano, arriva 9 più 10 qua al 430, arriva molto bene. Ma se vuoi gli faccio il conto, te lo posso vedere, 9.20, qualche lineetta in più per avere 5 watt, sta facendo un bel forte, non oso pensare, c'è pure una radio che va a 50 watt, cazzo, mi arriva una fucilata, arriva. Ma allora il discorso è quello che lui c'ha praticamente l'antenna a Sassari. Se io l'antenna la metto in zona mia, nella zona bassa, in campagna, non c'ha la resa che c'ha lui, capito? Perché io sono in un fosso. Vabbè. Arrivi noi. Scappa. Già pompa già. Ora sussi. Volevo cambiare tipo l'antenna adesso. Voglio provare un'altra antenna a vedere com'è qua. Io faccio un convinto che c'è in campagna. Lì non l'avrei messa lì, no. Se la metti sopra il tetto con 2-3 metri di barro, vedi che arrivi a Sassari una cannonata, butto di Dio. Perché secondo me è troppo basso, in quel punto per me sono troppo. No, fra. Assolutamente, va messa sul tetto quell'antenna, capito? Sopra il tetto della casa va messa, con pochi metri di palo, intanto che è messa un'antenna seria, no, vista. Ma vedi che arrivi. Ma chi sa antenna? Quello è un giocattolo, non è un'antenna. Ecco, ma questa che ho portato qua, e anche questa non è che mi piace questa antenna, però va bene lo stesso. Tu sai meglio di chi sei in campagna, però. Ma chi? Qua penso di sì, per l'antenna che legge va bene. Quella esce fortissimo, esce, ma forte però me. Però non te ne rendi manco conto quanto stai uscendo forte da lì. Vabbè, ma qua è tutta zona libera, che capito che sono io. Come è la zona di Claudio che è libera, qua è la stessa cosa. Tranquillo che va, tranquillo. Sì, già rimane indietro, va, non tocco più nulla, non ci salgo, torna su, rimane così com'è. Quando non serve ce la butto via. Ah, già va bene, fra, ma ora dove dobbiamo arrivare? Già va bene, basta ci sentiamo, oggi almeno a frutti. Solo una cucina bianca più. Ma infatti, non la dava la candela, infatti, spenderci soldi, non spendo più niente, neanche una riga qua. Sì, a me dillo. Ti ha durato un bel di denaro, questi cazzati di corsi, fa. Poi per che cosa? Non la dava più la candela. Io non mi ha tenuto questa linea del 430 e il Galaxy Blue. Questo ho venduto tutto, l'altro tutto via, lo se ne vai. Per ingaggiare il radio bagosa. Per niente, che poi utilizzi sempre due radio, uno o l'altra, non è che ne usi più di tanto. Vabbè, è giusto per avere, cioè è bello avere. Però devi tenere accese, consumo di corrente in più. Lui non per fare funzionare tutto, deve avere commutatori, spezzoni, chiavi, tutto mettere bene, invece vanno bene due radio, bagosa. Ripeto, per fare fare due chiacchiere più che sufficiente. Avanti, Lucarie. Infatti, non conviene, io vado per qua, ho un microfono da tavolo, mi servirebbe. Adesso vediamo, là. Se no, come si dice, vediamo, facciamo un compro nuovo. Faccio un salto da cosa, da Fusaro. Qua, se sono arrivati, dovrebbero ordinare più 4 e più 5. Capito? Perché gli ultimi che avevo li avevo comprati io. Non ne avrò più, dovevo riordinare. Ma ti dico che vanno bene, non costano molto, per il lavoro che fanno funzionano bene, a frutti di me. Sì, sì, infatti, si fa una piccola modifichetta, là. Poi ho già la capsula piccolina, quella del telefono, e quelle spingono, quella l'ho messa nelle BB più 4 mio che c'è a casa. Esce benissimo, non esce male. Poi lo riempio di cose, di metto un po' di cotone, giusto per fare una cosa fatta bene, e lo lascio così. Va bene. Ottimo per la truppa, va benissimo alla grande, tanto andare a comprare la seconda mano, 40 euro, aggiungi 20 euro e devo comprare il ginocchio. Vai Anto. Ma appunto malissimo. Guardi a non sei comparendo di nuovo, voglio sei comparendo, il canto è andando a pigliare. Io mi va a ginocchio e funziona con una meraviglia. Di più 4 c'è tu. Sì. Io ti sento, funziona bene, non c'è problema, quindi... Anche Franco c'è più 4, funziona bene, vai Franco. Ma Romeo non è seminato, no, Romeo è originale. Anche quello che avevo io era originale, l'ho fatto con la radio. E certo che è originale, non ho cambiato manco la capsula, nuovo nuovo. Cappa, funzionava in una pezzi. Chi me l'ha dato come uscito dalla fabbrica. Alla fine la voce, la radio deve spingere me. Molti lo modificano, ma magari perché non ho una voce tanto adatta, però io lo lascio così com'è. Allora sei di qua, già va bene. Ciao pagato. Andiamo a modificare, ma adesso la modifichi. Questo non ti piace il microfono, va. Questo è un microfono di 13, anzi di no, di 14. Come andava? L'ho recuperato in mezzo a tutti quanti i casini che fa più a casa. Ho recuperato lì, questo è tutto il microfono ricostruito. Ah, va bene, frate, scendo bene. Questo è un una scheda di un M300. E praticamente mi mancava la carcassa, ce l'ho buttato sotto un'altra carcassa, un casino qua, non te ne dico. Ma è grande perché devi avere posto lì. Comunque va bene. Se l'hai modificato va benissimo. Avanti tu. Sì, già va bene, c'avevo la M300, non mi ricordo mai chi l'avevo dato. Ce l'avevo. Stavo pensando qua. No vabbè, no, niente. C'ho quel microfono amplificato a casa, che è collegato al come si chiama? All'Intec B40. Però è sempre fa il male, non lo voglio. Adesso vediamo un po', domani vi faccio un giro su internet, vediamo un po' cosa trovo. Allora su internet sono trovato piano il Fusaro, dice se sono arrivati, perché so che li dovrebbe ordinare, capito? Se ce l'ha un 60 euro devo comprare il ginocchio, invece si è scoppiato dall'altri. Infatti. Adesso ti faccio sentire la modulazione di questo che sto utilizzando adesso all'MB più 4. Ma questo qual è? Quello 68 che ho lavorato io? Questo è il 68, la 68. Dove lo vuoi attaccare? Adesso metto l'MB più 4 su 68. Prova a vedere. Prova a vedere cosa fate. Ho pensato che noi mi la via mi muovi. Vabbè. Pazienza, va. Questo è l'MV più 4, Claudio. Signor Radio, giù. Va bene? Alla grande. Meglio dell'altro, no. Sì. E si conferma. Questo lo stesso l'ho modificato, perché c'aveva il trimmer, il potenziometro attaccato alla scheda, era tutto dissaldato, quindi gli ho fatto una modifica. E lo stavo provando appunto come stava andando bene. Se esce bene, l'ho chiuso e va bene così. Tu bene lo senti anche tu. Una cannulata. Hai capito? Tutto, ce l'ho a due di... praticamente di preamplificazione. Io lascerò così, già va bene. Luca, tu bene la città, Franco? Ho voglia. Questo è l'MB più 4, pilotato con l'ala 68. Una bombetta. I cellulari tecnico cifra funzionano bene. Funzionano molto bene, poi ti ripeto, a qualità presto l'MB più 4 e più 5 fanno il suo lavoro. Certo non sono all'altezza di altri microfoni come lo Shure, il TMP3 eccetera, però fanno il suo lavoro, funzionano bene. Ma questo va bene, già va bene. Adesso sto uscendo qua, questa parica sto uscendo con 5 watt, adesso io lo porto, schiaccio un pulsantino qua. E lo faccio salire ancora, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene, sale il segnale ma la radio rimane fissa. No, la radio è sempre quella, è tutto qua. Preamplificazione a 2, perché se lo aumento poi va a strappare, capito? No, lascialo stare così, grazie a te, tu riusci di andare a Giuditto, per fare due chiacchiere è più che sufficiente. Vai, Anto. Benissimo, oggi muro io, funziona che è una meraviglia, funziona. Aspetta, allora detta Gigia, adesso si becca il demone. E funziona in dei burume chizzo, va. Questa poca avrei preso una cagata, invece funziona bene, anche questo qua. No, già funziona bene. Ho comprato Rosmetro, 1-1 in stazionaria. E via. Cavolo. 203 della ZG. Pensavo di aver sbagliato, eh. Invece non funziona bene. No, già funziona bene, non ti preoccupare. Mi sento tutti benissimo. E questo è il suo microfono normale. Arrivo a tappi. Cosa che avete parlato in due? Cos'hai detto lui? Ha detto che arriva fra poco. Mi assento qua, va, arrivo subito, c'ho freddo, dai. E tappa di, qua c'è il riscaldamento acceso. Anch'io sono con la felpa, non pensare, no? È un bel di freddo. Questo è il microfono normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo qua è quello che usavi in macchina. Esatto, il microfono normale. Cazzo, va bene quel microfono, cazzo. Esce un bel bene. È il microfono suo originale questo. Vabbè, non è preamplificato. Ma già va bene lo stesso. Io ho voglia di andare a fare i buchi. Vai, Anto. Ah, tu. Sono sceso giù, sono sceso. Sei sceso giù, ma al volo da ricari. Da ricari? Ah, ma non puoi ricarlo, perché? Non ho capito. Non puoi saltare, sempre le scale devi fare. Salta su palcoli. Pensavo che potevi saltare. A capo a terra, sì. Oh. Già va bene. Che noia che barba, cazzo. Non da busso va, non posso va più nulla, gioco già pronto, ancora gioco in ordine intanato, cazzo. Tanto che freddo ci fu, allucinante. Mica c'è già una bella temperatura, ma forse domani fa bello, eh. Ma anche oggi non era brutta la giornata, Fra, non era brutta, c'era uno spiraglio di sole. E la temperatura che bassa, cazzo, c'è freddo, anche col sole c'è freddo. E sta facendo freddo di brutto. Ci si vede a Gancarassi, una volta lì su Urugane vede a Gancarassi. Non lo so io, allucinante. Ma il cane ce l'ho portato giù in campagna. Un travaglio, eh. Fra, io non volevo trasferirmi proprio per quello, almeno sono più libero. Perché apro la porta, vai, io ando alle balle, invece qua lo devi portare, non come fai, per forza devi portare. Ma quando cominci la mattina, è la sera, è la notte, un lavoro, eh. E che non stia piovendo, se no è un travaglio doppio. Hai capito? Soprattutto con il cane che hai tu e col cane che ho io. È un casino. Vabbè, ce l'abbiamo e bisogna tenerlo, vai. Avanti, Anto. Capo, chi da di te quando cambieremo casa, voglio pigliare un cane. Cosa? No, digli lasciate perdere. Non vivrete più, Anto, non vivrete più, siete giovani. non vivrete più, ormai mi lavo bello, per anni di vita, io ce l'ho 10 anni mio cane, 9 anni, va? 9 anni di vita mi ha tolto, perché d'estate ti giuro io andavo al mare, sì, ma se tu al mare vai dalla mattina alle 9 fino alla sera, per dire alle 7, io dopo pranzo me ne dovevo rientrare. Se no rientravo anche all'ora di pranzo a volte, perché il cane deve mangiare, deve uscire, un casino, un casino. Poi la cavessa in padre, poi ho quelli baragliata che va un cane, devi sempre rientrare a darle a mangiare. No, libero, un conto, se è un figlio è un conto, ma cazzo animale, lascia perdere. Cioè, li voglio bene gli animali io, però ci vuole parecchia cosa, avevo veterinario, me ne vuole poco di dose. Tanto è un figlio piccolo, come ci vuole il pediatra per il bambino piccolo, ci vuole il veterinario per il cane, che sia piccolo sia grande, il medico lo deve sempre avere, capito? Quindi devi comprare le medicine, il mangiare costa, tante cose, portarlo a lavare, tante cose. A parte il costo è un grande sacrificio, è un grande lavoro, fregatene, te lo dico per l'esperienza vissuta qua. Infatti io gli ho detto ai signori, morto Filippo, io cane non ne voglio più, non ne voglio più, basta, finito. Vai, invece di gabbo, cioè tutto il bene che è, però ci vuole molta attenzione, ci vogliono, tutto il bene che ci vuole, però non è solo vederlo da fuori, che bello, pure a curarlo, a farlo, ma ve la fai. Ottenere un appartamento, ma non stai scherzando, un appartamento, questo è grande, il tuo che è piccolo, anzi dai buoni per Lugani, no, ma poi Anto è non va bene, per il cane ci vuole la campagna, il cane deve avere il suo spazio, il giardino, il posto per correre, per giocare, per stare libero, il cane dentro casa non va bene, te lo dico guarda veramente col cuore perché è così. Io sono in grande difficoltà col cane, nel senso che mi crea un sacco di problemi, capito? Cioè, devi lavare più spesso, sempre disinfettanti, sempre vendi, ho tappeti che ho dovuto togliere tutti i tappeti perché altrimenti si riempiono le pelle di cane, ci sono un sacco di cose, lascia perdere, lui. Ma non so, ti capisco, ma avevamo i gatti, ed era un lavoro, era. Tutti, qualsiasi tipo di animale in appartamento non va bene. Gli animali, quando c'è una bella casettina in campagna, allora c'è il giardino, stanno fuori, ne puoi tenere più di uno, però dentro casa niente, capito? Ma quando c'è il cane così come ci vive, questo è pelo corto, però crea problemi perché è un bulldog inglese, quando beve, se non fa impresso a asciugare i muzzinghini, va roba a vaglino gioio, va, c'è un bambino, se non le pulisce in fretta il muso, che poco poco si cozzoreggia, allora gli stessi di puzzi, attaccate a rovedro. Ma che non lo so, ma che la puoi giocare all'ora? Perché è così, capito, tanto è così, ma anche quello di Franco è così, anche quello di Franco è così, ed è per lungo, sono belli, ti fanno compagnia, va bene, tutto bene, però è un grande impegno avere il cane in casa, tu lascia perdere, notte di buoni manco in cabua, sto dicendo che non vorrò l'ora di trasferirmi, a 30 anni e oggi, per che cosa? Proprio perché ho necessità di stare un po' più libero anche col cane, perché è un grande impegno, tu immagina, c'ho già le 6 e mezzo, fra poco me le 7 e mezzo, col freddo che c'è, mi devo vestire, coprire bene, portare il cane, poi turrassa, ne prende malanno, cazzo d'inverno io bestemmio, quando sta piovendo io bestemmio, veramente, perché mi incastro, perché non serve portarlo, si bagna, lo devi pulire prima di entrare, tutto asciuttato, sono del mio travaglio, lascia perdere, vai fra. E si conferma, è proprio un lavoro, perché io ce l'avevo qua, a parte quello di portarlo, poi il pelo, devi stare sempre con l'aspirapolvere attaccata, perché il pelo vola da tutte le parti, addirittura quello che ho io perde un po' di pelo, quel cocker, capite, ed è un casino, devi stare sempre con l'aspirapolvere attesa, fendere, ripulendo, rifacendo. Poi sta meglio in campagna, c'ha la sua libertà, gioca, fa, capito? Certo, certo che così fa, ma io sono d'accordissimo. Però purtroppo, cosa fai? Quando ce l'hai, questo l'ha regalato ragazzo a mia figlia, capito? E quindi abbiamo fatto grande. Io pensavo che Filippo rimanesse un po' più piccolo, un po' invece è un colosso. Perché gli altri tipi di bulldog, tanto tu hai visto Filippo, gli altri tipi di bulldog sono più bassi e più corti. Questo è un fuori Italia, quindi è molto più alto ed è più grosso, capito? Non è che cambi molto, perché è molto bravo, tranquillo, è un po' rompipalle, però già è bravo. Ma non è che ti bebbiliamo un chihuahua, un cane da lecca, a me non mi piace nessun cane di Scimminoletti. Non so, ma è bravo poverino, è giocherellone molto, io ho visto che pensavo che era amaro, invece è giocherellone, è un cucciolo, è proprio, cioè, è bravo, non è cattivo come cane, l'ho visto, me ne sono accorto subito io. Ah, no, giocherellone sì, è bravo anche perché un cane è educato, tranquillo, conosce tutti qua. Ehi, tutti quando lo vedono in carriera lo salutano, nel senso che si fermano, fanno, lui basta che lo chiami per nome, lui sa già che tu lo stai, che lo conosci, quindi, capito? No, va bene, però a prescindere da tuo cane in tuo casa, non te ne buoni, perché ti sto dicendo che ti basterò l'ugogio, hai finito di uscire, di fare, è un casino. Il cane vuole in campagna, deve avere lo spazio, il giardino, le sue, i suoi comfort e tutto, altrimenti non fa. Io l'ho portato quando era la settimana scorsa, e sono andato a vedere che punto erano i muratori, legge mullato, ma sai, anche era contento, ecco. Stava lì nel giardino, girando, bruciando, facendo, gli ha dato sbalzia una bisciada, capito, vuole libero il cane, quando ce l'hai dentro casa non fa. Vai, Franco. E si conferma così, e quando c'è dentro casa, purtroppo, anche se il mio non sporca dentro casa, se sporca dentro casa è proprio perché non lo porti, oppure magari lo porti, sei veloce perché c'è freddo, lo porti su, allora potrebbe fare qualche cosetta, altrimenti per il resto è tranquillone come cane. L'unico problema è che quel cane che perde troppo pelo, capito, il casino è quello. E quindi adesso se ne sta in campagna, il calduccio lì già sta bene sotto la tettuglia e sta meglio, dai, tutto lì. A parte che oggi c'è un freddo che pirirà gli altri. Sono uscito fuori un attimino a vedere, ma c'è un freddo, c'è la bello pulito, ma c'è freddo forte. Anche sotto la tettuglia, ha ragione, sotto la tettuglia, dove c'è l'ingresso alla porta, non lasciate dentro. No, dentro, ma non dentro casa. Ah, spavolino, troppo freddo c'è. No, Filippo è dentro. Filippo nel poggio ci sta solo, se è bella giornata, piace il sole. Allora vuole mettere la brandina fuori, buttala di cucato pure al sole. Ma se c'è freddo no. Io sotto la televisione cucato, dormito, grubled, ma non ho muleccio, ci vede solo un gabbo. No, ma non è fuori all'aperto, è chiuso, capito? Ah, la veranda chiusa. Allora, su no, su c'è troppo freddo, ma stai scherzando? Ha la veranda chiusa, giù, radio va bene. No, io ripeto, sta solo fuori al sole, se c'è bella giornata, se c'è freddo non si entra dentro, non ci sta. E allora non sta dentro, messo lì, quel tetto vicino a mia moglie, c'è la televisione lì. Rubled, infatti quando io devo portare sto cane caldo, case da rubled, ero freddo, e che lì viene gli accidenti, mi prendi anche tu. Boh, io vado a seguire i cani, non li faccio in nulla, boh, accidenti viene a noi, sono a freddo, già è bello massiccio. Ah, non li faccio in nulla, tu devi la croce, bisogna di me. Ci prende una volta alla settimana, prende la pastiglia per le ossa, ci fa quasi 10 anni, Filippo, già pensi che sia un cuccioletto. Non durano molto questi tipi di cani, non durano molto, anzi lui, essendo un fuori Italia, è un po' più robusto. Ma il bulldog inglese, i molosci, 8-9 anni, e c'ho KO, capito? Anzi, già vado che è bello giocherellone ancora. Sì, perché è toppato, bel forza. prende gli antinfiammatori una volta alla settimana, quindi lo aiutano, se no più di una volta si è coricato in terra, non se ne bisogna dare dolore di china. Cucciolo. Allora, quello che c'avevo io è morto a 17 anni. 17 anni quando è morto, quello piccolo. Come ti chiamava, Alicio? Rubison. Rubi, che buca da male. Quando ero in braccio a Teresa, non ti faccio la vicina, ti muscingavo. Grazie, mi ha mosso al dito, mi curia. Finalmente. Per una strada nell'aria. A Rubi, ma vedi, quello era uno shy, un cane piccolino, non è che... Ma quando c'hai cani così grandi come ci vogliono? Non puoi andare a lungo, soprattutto questi tipi di cani, i morossi in particolare, ma il bulldog inglese non lo puoi lasciare solo, non lo puoi lasciare solo che gli viene a disipere, lui vuole sempre compagnia, se dorme con la luce accesa, c'è una luce di quelle piccoline che si attaccano alla presa, no? Quelle luci di cortesia. Se tu non li accendi quella lì non si corica, non credi, non è metto rene. Mia sorella ci aveva un Rottweiler, il maschio e la femmina, e uno ce l'aveva nel capannone, il maschio, e la femmina ce l'aveva a casa. Beh, un giorno sono usciti a Sentino, sono tornati, sono trovati tutti i divani a brandilli. Lui c'era un bulldog inglese, soprattutto non tanto il bulldog inglese quanto il Carlino. Il Carlino è il bulldog francese, sono così, ma di più il Carlino. Non sopportano rimanere da sole e loro ti fanno dispetti, capite? Filippo non ha mai educato nulla a morsicare una sedia, mai, né da piccolo né da grande. Mai fatto la pipì dentro, mai sporcato dentro, perché è stato abituato da piccolino, capito? Anche perché a me me l'ha portato ragazzo di Italia che ci aveva già 8 mesi quasi, ce l'aveva lui in campagna sua, capito? L'ha fatto grande lì. Infatti quando lo vedi diventa macco, basta un bruscio e te ne rampa la Ianna perché vuole andare da lui.